giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. Sabato 23 maggio 1992, sono le 16:50. Un jet trasporta il giudice Giovanni Falcone dall'aeroporto di Ciampino, Punta Raisi a Palermo. Con lui c'è la moglie Francesca Morvillo. Gli attendono 6 agenti su 3 Fiat Croma blindate. Falcone decide di guidare, la moglie sta accanto. Imboccano la A29. Sulla statale che corre parallela all'autostrada qualcuno osserva. Una Lancia Delta si mette in moto. È quella di Gioacchino La Barbera. Quella giornata io personalmente pensavo che non doveva funzionare, perché ho visto i preparativi, anche se sono arrivato alla fine, diciamo, erano molto, ma molto rozzi. Io mi trovavo circa un chilometro, perché ho accompagnato il corteo delle macchine blindate fino a un certo punto a cavalcavia, circa 800-1000 metri prima di dove è scoppiata appunto la bomba. Mi ricordo, ho visto una grande fumata. A distanza di circa mezz'ora, in macchina, avevo la radio, ho sentito che il dottor Falcone si era salvato. Poi man mano, sempre alla radio, ho sentito della morte del Falcone, della dottoressa Morvillo e la sua scorta. Io facevo da staffetta, io avevo il compito di avvisare tramite un telefonino e Gioè, che si trovava appunto assieme a Brusca in una collina col binocolo, avevo l'incarico di seguire la staffetta delle macchine blindate fino a cavalcavia, ripeto, 800 metri prima del fatto. Il convoglio si avvicina allo svincolo Capaci, Isola delle Femmine, e poco accanto un canaletto per lo scolo delle acque. Dalle colline gli assassini seguono la scena. L'interruttore che mette in moto il meccanismo della strage è un segnale in codice, una telefonata. Alle 17:49 Gioacchino La Barbera chiama Antonino Gioè. 17:56 minuti 48 secondi. Giovanni Brusca sfiora il tasto del comando a distanza. Il pulso raggiunge il tombino dove è collegata la ricevente. I 5 quintali di tritolo seppelliti nel canaletto di scolo divampano. Il boato è enorme, solleva 100 metri di asfalto. L'autista di Giovanni Falcone, Giuseppe Costanza, vede la morte davanti. C'è soltanto quel tratto di strada che ricopre l'aeroporto Capaci, dove si dialogava nel più del meno. Dopo di ciò mi sono risvegliato in ospedale, la mia mente si rifiuta attualmente di ricordare ciò che ha visto in quel momento, se c'è stato un attimo di possibile visione. Palermitano, classe 1939, Giovanni Falcone entra in magistratura nel 1964, pretore a Lentini, sostituto procuratore a Trapani per quasi 12 anni, torna a Palermo nel 79 all'ufficio istruzione. Dall'83 nel pool antimafia, sono gli anni del maxi processo e delle indagini incrociate sulla mafia italo-americana. Alle elezioni del 1990 dei membri togati del CSM, Falcone si candida senza successo. Dal marzo del 91 a Roma dirige gli affari penali del Ministero di Grazia e Giustizia. Giovanni Falcone in quei giorni si sposta dunque, in continuazione, da Palermo a Roma. Quella che in Italia si respira dopo la strage di Capaci è un'atmosfera pesante. L'esplosione di Capaci deflagra fino a Montecitorio. Dopo 10 giorni di stallo, il 25 maggio viene eletto il nuovo Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, 73 anni, democristiano. Lo stesso giorno a Palermo i funerali di Stato delle vittime della strage. Insulti ai politici, costretti a entrare in chiesa da una porta di servizio a testa bassa. Lo Stato e la politica sono sotto accusa per la morte di 5 funzionari dello Stato. A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato. Chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e non, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia: il potere politico è fondato sul consenso criminale. Manifestazioni a Palermo. A un mese dalla strage di Capaci, 100.000 arrivano da tutta Italia per sfilare contro la mafia. Il governo Andreotti approva norme antimafia di emergenza. Carceri speciali per i boss, indagini segrete di polizia e premi per i pentiti. Il ministro della giustizia Claudio Martelli propone Paolo Borsellino come super procuratore antimafia e il pentito Antonino Calderone avverte: ci saranno altri delitti eccellenti. 19 luglio 1992. Dopo Giovanni Falcone, membrino della mafia stagista, c'è l'amico e collega Paolo Borsellino, l'erede ideale del pool antimafia istituito a Palermo. Sarà ucciso insieme agli uomini della scorta proprio quel giorno in via D'Amelio a Palermo. Anni di lavoro, inchieste giudiziarie, intercettazioni telefoniche e ambientali. Migliaia di pagine stipate in faldoni formano il castello delle accuse che porta ad individuare gli assassini di Giovanni Falcone. Per giungere ai killer si forma una squadra di investigatori capaci, tra i migliori in circolazione. E dopo anni di bedinamenti si arriva all'intercettazione ambientale. In un appartamento nel centro di Palermo parlano Gioè e la Barbera. Doco a Capaci, unicifici la tentatui. Ovvero lì a Capaci, dove feci il grande attentato. Francesco Gratteri, nel 1992 investigatore della DIA, fu nella squadra che si occupò delle indagini sulla strage di Capaci. A lui abbiamo chiesto di ricostruire il lavoro investigativo che portò all'arresto degli assassini di Giovanni Falcone. Fu fatto un monitoraggio, diciamo, un'analisi del traffico telefonico che aveva impegnato una cella che comprende praticamente la zona del delitto, dell'attentato. Quindi sono stati raccolti dei dati. Quei dati sono stati ovviamente incasellati, cioè congelati per un certo momento, acquisiti e messi da parte. Si ricorsi, diciamo, ecco, alla utilizzazione di quel dato dopo che vi sono state altre indicazioni che erano state raccolte diversamente agli Unde, diciamo, sulla partecipazione di un gruppo di mafiosi che aveva direttamente partecipato all'attentato, insomma. Mi riferisco a quanto si oggetto di una intercettazione ambientale che, diciamo, è stata resa pubblica attraverso dei libri, degli scritti, dei documenti, un filmato fatto a carico di Nino Gioè, insomma, ecco, il famoso, la frase detta sull'attentatuno, insomma, diciamo, ecco. Questa fu storicamente la prima volta che si riesce ad acquisire elementi di prova su personaggi, su esponenti di Cosa Nostra che non siano dichiarazioni testimoniali, ma l'elemento di prova, diciamo, dalla voce, dalla bocca dell'interessato. E dopo le inchieste giungeranno i processi. Ecco la storia del lungo iter giudiziario. Il 7 aprile 2000 la Corte d'Assise di Caltanissetta, con 29 condanne all'ergastolo, conclude il processo d'appello per la strage di Capaci. Tra i 29, Leoluca Bagarella, organizzatore ed esecutore dell'attentato, e i boss della cupola, Bernardo Brusca, Giuseppe Madonia, Nitto Santapaola e naturalmente Totò Riina. Grazie alle attenuanti previste per i collaboratori di giustizia, condanne al di sotto dei 20 anni per i pentiti Salvatore Cancemi e Giovanni Brusca, l'uomo che azionò il telecomando. Condanne minori anche per altri 3 pentiti del processo, 3 le assoluzioni. La sentenza di primo grado 3 anni prima si concluse dopo 107 udienze, 269 testimoni e 27 collaboratori di giustizia ascoltati. Rispetto alla sentenza di appello, i giudici inflissero 5 ergastoli in meno. L'accusa ne aveva chiesti 32. Giovanni Falcone e la lotta alla mafia. Sono parole che oggi conservano ancora il senso della storia e della memoria. Siamo stati abituati per lunghi anni ad assistere impotenti e quasi facendovi l'abitudine ad imprese scellerate e alla crescita smisurata di organizzazioni criminali che sono divenute un vero e proprio contropotere all'interno dello Stato, condizionando intollerabilmente lo stesso sviluppo democratico del Paese.